attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione 10. Yo bro. Cambio. Attenti al gorilla. Attenti al gorilla. Sulla piazza della città, la gente guardava con ammirazione. Un gorilla passato là, dagli zingari di un baraccone. Senso del pudore, le comari di quel rio contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti a gorilla. Poi senti, no, non c'è nessuno, cambia. Preso, io mi dai un miliardo, boh, se pure sta attento, il fatto che con la mascherina, però boh, vai a capirlo. In teoria c'è proprio la mascherina, c'ha l'FFP2, usa quelle buone, molto attenta, poi non fa entrare nessuno a quel bar, manco se non vado che in faccia non entra, manco vola di Bosch, nulla. Non servono neanche, capito? Quindi sono molto attenti, ma sicuramente siccome lei il 24 aveva festeggiato un po', e il 25 lei era libera, si sono viste con tutte le sue colleghe, anche ex colleghe di dove lavorava prima, altri bar che si conoscono, insomma hanno fatto un po' di vita, sicuramente lì c'era qualche intruso, capito? Qualche intruso, qualche furbetto, che ne ha contagiato uno solo Edano, ne ha contagiato anche tre di amici suoi, che non lavorano con lei, che però erano presenti in questa comitiva. Non ci riuscivo a capire, beh, c'è uno che ce l'ha e non ha sintomi, esce tranquillamente, capito? Succede un batatrac. E vabbè, succedi. Attenzione, K10, il tuffo di me. Ho visto che c'era questo sul 23, io entro salute e vado via, non ci rimango mai sul 23. Quindi mi sono messo qua sul 10, ho sentito te, sono entrato a salutarti. Ma no, na giugana, a Megheri non una giugana, genio. Ti credo, ti credo. Ma poi su 23 no, ma c'è nessuno. Chi c'è su 23? No, c'era Natalino, Franco, California e Torre Squalo. No, vabbè, loro stanno sempre lì, Torre sta sempre lì. Ma ovviamente non c'è nessuno qua su 10, sono passati lì. Beh, normale, si va dove c'è gente, ci mancherebbe. Ma io non è un canale che battico molto, capito? Quindi se c'è qualche amico, saluto, poi me ne vado, no? Non è che ci rimango. Kappa, questo è freddo pure, ho già fatto una bellissima giornata, però come va via il sole, cazzo, c'è un freddo allucinante fuori barò. Ma va, c'è l'umidità, più freddo fa di giorno e più freddo fa la notte. Vai, adesso entra anche Antonello, sempre dalla lieve, il sacco della Maccio. Ma là tutto Antonello, hai dato un po' la radio. Non fanno travaglia vero. Ma lavora come un asino, io lo conosco una vita, abbiamo la stessa età, siamo nati nella stessa strada, si può dire, però Torres, ci conosciamo dall'infanzia, ma sempre lavorato, cazzo, sempre lavorato, è una cosa allucinante, intanto non ce n'è per nessuno, perché è un bravissimo, nel suo lavoro non ce n'è per nessuno, molto molto bravo. Quindi c'ha un sacco di clienti, lui a fare le cortesie non dice mai di no, e parte il gruppo orario, non è la prima volta, no? Si ferma la macchina anche lui, non sta arrivando, è molto bravo nel suo lavoro, ma è cazzo a dire che si ammolla a ghito orario, nulla, ma sai qual è, che lui abita lì, c'è tutto lì e quindi cosa molla, se deve finire finisce, deve fare. E già lo so. Il problema di avere il lavoro proprio sotto casa, ti sei sempre mangi, scendi giù, esci fuori e vieni in chili, insomma, chi ha a consegnare è normale. Lo so, mi sono promesso di andare a trovarlo, non c'ho mai tempo, una rottura di balle, non ho trovato nessuna parte. Ma devo scendere a farle vedere una cosa della macchina, devo scenderci noi queste mattine, mi voglio in macchina e farò qualche d'ora, apriamo il caffè. Sì, fai così, se finito tutto fammi lo spillo e ci bevo un caffè, sempre se mi passa questo cazzo di cose. Ehi, ma domani cosa va via contro il Covid? Lui non è vaccinato, mi sembra. Ma domani capirà via? Cosa serve Antonello ieri contro il Covid? No, niente, cioè perlomeno io sono stato 10 minuti e non stavo parlando del Covid, perché poi sono a vaccinare, non so poi come il proseguo. Anch'io poi mi sono allontanato, ma lui stava parlando appunto di garanzie, che non hanno dato garanzie di niente, che secondo lui è fase sperimentale, non è gattuccio, è così e basta, perché un minimo di garanzie ce le potevano dare, visto che siamo quasi al quarto vaccino. vaccino e ancora siamo tutti ammalati. Sì, vabbè, è complessa la storia. Non la giuro, io non sono più compresa, anche perché io la terza l'ho saltare, la devo saltare. Devo saltare, quindi non me la faccio più. Finito. Non lo so oggi. Adesso c'è questo super green pass. Se non c'è la terza dose non te la rilasciano. E l'altro scade. Mi sa che siamo costretti a fare anche la terza, capito? Anche io non l'ho fatta. No, perché io l'ho avuto, ce l'ho, cioè ce l'ho, quando mi passa agli anticorpi, l'avevo già detto, non ho, il vaccino non l'avevo fatto, la terza dose non l'avevo fatto. Lo so, genio, lo so, è una grande rottura di balli, avrei voluto che finisse tutto questo casino, tornare alla normalità, vederci in faccia, io a volte una giova agonia. Cazzo mi saluta, chi sei? Allora se abbassa la mascherina, io, oh ciao, cazzo perdona, ma non ti riconosco con questa cosa, c'è una cosa allucinante, di macaradica, ma per carità, guarda. Purtroppo, questi sono gli esperimenti dei musi gialli. Gli si mangiano tutti su cammina, è un casino. Oramai siamo in mezzo. Dobbiamo aspettare, io penso altri 2-3 anni, poi riusciremo. Ma per quest'anno poi lascia stare. Sì, per quest'anno, che sta appena cominciando questa variante, ma adesso c'è questa Omicron, poi ci sarà la variante Giovannina, poi ci sarà la variante Fettina, poi ci sarà la variante Claudina. Cazzo, cioè non usciamo più, capito? Siamo una dietro l'altra, una dietro l'altra. L'influenza, questa qua, tutte le varianti sono le influenze annuali che vengono ogni anno, una volta era cinese, non tirano in più, una volta non so cosa era, una volta era, ogni anno c'è, e adesso le stanno creando varianti, secondo me. Ma chi vivrà vedrà. Quando muoiono non ci portano. Sì, il problema è che prima la chiamavano influenza, capito? Quindi non c'era nessun problema. Ora invece la chiamano il Covid e quindi non puoi andare a luogo. Sei bloccato, segnalato. Sembra che ti mettano l'etichetta. Stai scherzando. Lui mi ha levato subito un messaggio all'altro. Di seguire la norma di legge, la quarantena, e ma girami le balle. Ma ci ho pagato due tacche pirina, febbre non mangiamo mai dato, due tacche pirina, i dolori sono spariti, l'influenza è sparita. Sono andato, mi sono fatto un tampone, era negativo, però è negativo che è in quarantena. Sì, ma anche a me un paio di... ti ripeto, questo è un mal di gola, i sapori non li sento, sto finito lì, però per rispetto di me stesso e per rispetto della gente me ne rimango in casa, perché non sa mai che posso contagiare qualcuno, capito, tutto lì, perché poi febbre non ne ho, dolori non ne ho, non va giunta, ti ripeto, mal di gola e non sento i sapori e gli odori, tutto lì. No, beh, anch'io ho seguito a conto mio, ma non sono uscito, non ho fatto, non sto uscendo neanche adesso, anche se posso uscire, capito? Però mi sembra una cosa un po' troppo esagerata comunque, e vabbè. E cosa vuoi che ti dica? Non so. E tu questo vuoi la condizione del tempo? Cos'è oggi, lunedì? Oggi lunedì sì, lunedì oggi, non è martedì sì. Ah, ok, quindi io domani mi devo prenotare il tampone per entrare al lavoro, sennò casino qua. Andiamo, bobo, cazza. Ciao, amico mio di Sassari. Buonasera a tutti, ciao amico mio di Porto Torres. Oh, un po' di mal di gola, Sono tu un Covid dai biglietti. No, Covid no, poi sono influenzato, fra, ciao, fra. No, colpo dai. conosci a Cardungaggio, che sei leggero, no? Cioè io ho usato la magliettina sotto col fino quelli leggeri a V, ma riguardo, ma. Infatti male ma mettiti giù un bottolo, mi. Cazzo, no, io non l'ho mai retta qua. Non esiste più influenza, è solo Covid. Ma un tampone è fatto, No, tampone ho fatto, quello di c'ho anche il dentista mercoledì, ma non vado. Cosa? Non ci posso andare con l'influenza. Vabbè, c'ho la febbre a 37, è qualcosa, non è l'influenza quella. Infatti 37 e mezzo. Quanto è l'aria? Ho preso il colpo d'aria, febbre 37 e mezzo, tachipirina, scendeva, poi risaliva, scendeva, poi risaliva, allora faccio da un po' e Covid, e vado i vaccini. Come sei pizzicato, vai tranquillo che non sei pizzicato. Io ce l'ho tutti e tre i vaccini, capito? Non frutti nulla, ci vede, ne vuole pure 4. La gente vuole fare un tampone, a tutti i dimmi. Fregatene tu con questo Giorgio Claudio, vuoi fare un tampone, a voi mi cazzo che avevi ragione, mi dire Eugenio. No, caro, non è niente, un'influenza, e invece non c'entra affatto. Poi tu frequenti i locali, e frequenti, quindi, magari qualche furbetto, qualche imbecille, capito, sei contagiato. Vabbè, però posso anche fare, non è un problema. Solo che è un casino, vedi, prendere l'appuntamento. Farmacia, vai, ho già appuntamento, vai, farmacia te lo fai. E dici che hai i sintomi, te lo fanno subito. E dico c'ho un po' di mal di gola, la gola rossata, c'ho un po' di tosse, ma me lo sto curando con questo sciroppo che è molto buono. E poi, c'ho, vabbè, lo so, per la gola. Niente, poco fa c'avevo un po' di freddo, poi mi sono fatto mezzo bicchiere di latte, caldo caldo, poi c'avevo una bustina di occhi, mi ha fatto con la mano di Dio. Ma lo prendo, mi è passato, anzi voglio pure la canzone, cazzo un bel. Non è prendere occhi, prendi un attacco pirigna, se ti fa bene, ti fa bene. No, non mi fa niente, attacchi prima a me, no, mi va di nulla. Allora un gruffo da 600. Io sono sempre curato con occhi, mi ha fatto sempre la mano di Dio. Guarda che 6-7 anni fa mi è salita la febbre quasi a 40, ci mancava poco mi. Niente, poi sono attacchi prima a nulla, non mi massava, mi sono curato con occhi, il latte è caldo, cioè, ti me la bruciata. Mi è guarita, guarda che è una bellezza. Fidati di me. Poi mi è stato anche riferito, oh prendi occhi, il latte è caldo, vedi che ti passa, infatti così è stato. Attacchi prima non mi fa di nulla. Sì, però se c'hai sintomi influenzali, questi sintomi influenzali derivano dall'Omicron, è di bigliata che prima per forza, l'occhio ti va di nulla, capito? Non ti fa niente, la tachipirina è quella per questa variante, lui, ieri è nata i vaccini, e ce l'ha pigliato, come a te mi usci, è arrivato a casa, mi andigola, mi fa male, qui mi fa male, tu prenditi un antinfiammatorio, prenditi qualcosa, misurati la febbre, 37 e mezzo. L'indomani, tora, 37 e mezzo, dolori, sintomi, erano quelli, il tasco farmaco, vai fatti un tampone veloce, è andato, ha fatto tampone positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Vabbè, domani prendo l'appuntamento. È appuntamento con quel tampone, non è trovato nei bussi. Niente, ma lo faccio, ma non penso che sia così. È una semplice influenza. Poi, non è detto, Il problema non costa niente. Cioè, costa, cosa me la futti, ce la piglia in culo. Quindi in giro costa lui. Ti ho detto che è così. Non è una semplice influenza, non è un'influenza, non esiste più. C'è questa variante, io mi dico che come l'influenza, precisa e identica, ma è chiamata Covid. Io te lo dico per tua madre, già lo sai. Vai fatti un tampone subito, non stai in chivi a prendere niente, vai fatti un tampone. Se il tampone risulta negativo vuol dire che sei stato fortunato e c'è una semplice influenza, però chiunque sta facendo così, i sintomi sono quelli della variante Omicron, non c'è niente da fare, ormai l'influenza non esiste più, un semplice raffreddore come abbiamo anch'io, Milù. Stavo facendo furi, mi sono raffreddato, qui e là e C le balle del nonno, però mi ha incubato, è positivo, capito? Perché sono vivo. Farò così, riprendi oggi un attimino, vado a mangiare alla bambina. Io penso positivo, adesso sto cedendo il mio smartwatch. Come non va? Eccolo qua. Attende sensazione di quando fumo la sigaretta pure faccio uscire il cane, specchio se deve fare la pipì. Se fuma, fuma, oh yeah. Dai, riprendo fra 10 minuti ragazzi che sto facendo qualcosa. Un attimo, eh. Ma approfitto, sono andato fuori col cane e mi fumo la sigaretta. Vabbè, là ci vediamo fra 10, ci sentiamo fra 10 minuti, eh. Ciao. Cava, cava. Sentirai. Mi chiudo dentro lo scavatore con lo scaldamento. Ma io ti cacciate meglio di te? Sì. Allora. Poi a Claudio Medinfella, Claudio. Fate andate a mangiare. Casino, confidaria, sono brutti. Tutto un insieme, cioè, non sei sicura la doccia, sei sicura la panata ha fatto doccia, no, poi non mangio molto, ma con gonfietta, c'è un male, panata e capelli bagnati, ti mica, beh, bisogna stare attenti adesso, confidaria. Mi sa che non mi dà bombi, poi se non fa male un biottino. Conviene, poi fai con un altro, ne ho conosciuto uno, ma credimi, ne ho conosciuto uno che io ero piccolo, però senza fare nomi, molto sicuramente conoscerei al nipote tu. Il nonno era 40 anni, credimi, 40 anni senza lavarsi, e non so favori, cioè gente che l'ha lavato dopo la crosta, per carità, 40 anni, pastore, quindi ti vedo tutto. Grazie 40 anni, pensa una di gamba metto bumare, pensa 40 anni, madonna. Era così, era fissato così, io piccolino, poi aveva fatto anche la guerra, quindi insomma, non si doveva lavorare perché sennò si prendeva la malattia, capito? È morto a vecchia età, non è che, ma poi ha fatto, forse i 100 anni li ha toccati, cazzo, ma 40 anni senza lavarsi, il record, poi avrebbe vinto i Guinness dei primati. E tu scherzi, però tu pensa che chi l'ha lavato poi è stata mia mamma, era amica di mia madre che praticamente era la, come si dice, era la moglie del figlio, capito? Quindi non so fuori. Allora ce n'era uno vicino a casa. Andava a fare il manovale con questo tipo che è deceduto, un signore, da, chiamava anche a me ogni tanto. E stavamo in una pizzeria. E tu praticamente era un anno che non si vada la doccia. E se mi vado a tenere la doccia oggi, ma sono un anno che non mi lavo io. Infatti poi è morto perché era un tipo che beveva solo e mangiava poco. Ma beveva però, i suvini in scatola. Si è ammazzato con i mani soli, è morto sia lui che il fratello. Ne ho trovati molti dentro casa. Prima uno e poi l'altro. C'è molta gente qua, non è che. Io non ci credevo, e mi hanno detto, ui. Neanche la spugnetta un tigia mai ce l'ha in. Con l'acciaio riuscivo a pulire la pelle come ce l'aveva attorno alla forza naturale, ti puoi immaginare. Casino. Ci vuole la pulizia inutile. No, io non me la fuggi nuda. Leva consumo, prodotti, a quantità, in quantità. Tu pensa che se non me la voglio un giorno, vabbè, lascia a parte adesso, bene o male sei in mezzo al fango, ma è fatta che sei in mezzo alla polvere, per carità, è sudore, ui. Ma infatti, dici, ma chi ti dà, se non si trova non si è venuto nulla, se mi aprono mattessi, che non si può venire nulla. Ho capito, non sudi, tipo vedi, oggi la verità non ce l'ho fatto, sono sincero, ma mi sono fatto a piedi, te l'ho pulito, ho fatto i piedi, le ascelle, la magagliù, ma sono pulito però, non l'ho fatta perché dovevo uscire, non volevo rischiare magari che mi aggravava ancora di più. No, ma infatti, vabbè, finché stai male, insomma, che devi stare riservato, dai, non è che un giorno non cambia, sì, meno male, ti fai ubbidire e sei dentro a pesce. Ma infatti, uno si fa ubbidire, stava le ascelle, i piedi, è pulito, alla fine non è che sia sporco, ma l'ho fatto perché io ho detto mi posso la doccia, però se mi la posso mi fulmineggia. Allora ho evitato, dai. Non conviene, lo conosce bene. Stiamo a venire lì, poi d'estate due, tre volte. Cazzo, tu cazzo, mi posso usare un guerrero, ma era fanculo. Ma io non sono a questo. veloce, mi sono rilassato 5 minuti come venendo d'uso, adesso vado e preparo qualcosa per mettere sotto i denti. Però si inizia presto presto. Beh, non c'è altra cosa, ma la doccia calda, ti rilassa, sì. E vai tranquillo, sì. Io tra un po' mi porto uno sciroppo, verso le 9 porto il cane, 9:15, mi compro bene, fare i bisogni, e poi mi zigocco. Andava, io già sono qua, dai, se puoi rientrare già sono qua. Sì, dai, a dopo, ciao, ciao. Ciao, Tino. Luca? Ehi, avanti! Sono Beato. Oh, chi sei? Secondo te chi sono? Provello. Oh, ciao, compa, mi Maria Luca, mi Maria. E beh, sta a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Gaffa, gaffa. Io mi ha appena finito di fare la doccia, io. Meglio così, io stavo lì. Accendendo con adesso l'apparecchiatura. No, mi ha acceso da un po', è acceso. Cazzo, tre rimane mi sono gubbato una magnata di baffa al forno, ero da un bel senza magnarli. Così, la giubbata io la giubbata. Hai fatto bene, almeno ti rilassi un pochettino e porti le bombole come niente. Ma il prosciutto l'ho fatto. Non va bene, è uguale, me lo cambia nulla, ma il prosciutto guanciale, quello che è. No, guanciale no. Al prosciutto, cioè. Non so se l'hai mai mangiata tu al prosciutto, sì. Sì, sì, l'ho mangiato. Ho mangiato anche. Ieri sera ho mangiato le penne con sugo di cinghiale. Figurati. Cazzo, che buono che era. Solo che il problema era tobbiare, cazzo, perché ti devo fuggire dalla camera. La prossima volta mi ricordo il cinghiale, guardatelo. Lui come farlo, lui c'è tua moglie, lo fai fare il cinghiale, ti fai fare il sughetto, tu vedrai che la notte non ci dormi con lei, lo dico io. Perché quando comincia a tobbiare, sembra che tipo cane morto, capito? Ah, così ti va a te. Eia, mi ha fatto tipo cane morto. Cazzo, sono tornato ieri notte, cazzo, in bagno. 4 volte sono andato sul cenno per togliere, se no non riuscivo, cazzo, a dormire con l'odore, cazzo, di coso, cazzo. Per carità. Sembrava che avessi ammazzato un maiale. Cago di guru, vera. Di tutto, vera. Di guru, di ganna. Cazzo, così ti fa il caracotto, tu. No, oh, me l'ha fatto mio cognato, me l'ha fatto. Ah, ora che l'ha scongelato male, no? Per quello che ti ha fatto a trutti. No, già l'ho cucinato bene, c'ha un buon sapore, cazzo. Allora, di tutto, da tutto quel sapore, cazzo, ha fatto un buon... Tipo aspettativo, ma veramente buono, la verità. Tutto il cognato qua, dicio... con quello che è adesso tua sorella? Eia. Meno male, va. L'ha fatto lui il giorno di Capodanno, l'ha fatto. Figurati. Ma buono, veramente buono. Cos'è, cacciatore? No, è poco, già lo sai, a pizzicotto. Ah, vero? Eia. Allora già lo conosco sicuramente, boh. Lì a Sant'Orso sta facendo il cuoco adesso. Prima l'ha pizzicotto insieme a Giovanna, la signora Franco. Che paura con la sua Siria, che? Si chiama Giovanni, anche lui si chiama. Quindi figurati. Ha fatto un bijou, ha fatto questo, ma veramente buono. E beh, se non sa cucinare, tu caro sa cucinare, scusa, è appunto per quello. Gaffa, e beh, ci mancherebbe altro che non sapesse cucinare. Appunto per quello, già è così. Già va bene. Perché sto facendo un lavoretto veloce. Già ti chiamo fra poco. Gaffa. Sto saldando, quindi gli occhiali quelli ingranditi, e sono ingranditi, vabbè, che facciano di grandimento, non lo sai, quegli occhiali cinesi. Mi sono salvato delle batterie cinesi, cinesi di quelle di cosa, di telefoni, una volta, per un coso, per un ricevitore. Speriamo che funzioni. Speriamo bene. Ma comunque l'apparecchio l'ho provato e va bene. Mi sembra che va abbastanza bene. Adesso fra un po' lo accendo, vi lo provo. Se te l'ho detto, che non c'è niente. Magari tu, esatto, stavi pompando troppo ingresso e cose del genere, lo sai, quei filari fanno così. Purtroppo mi sono dedicato di dirtelo. C'hanno una protezione quei filari, in pratica. Se tu gli dai le chiavi entro di stazionaria, roba del genere, che gli dai più di input, immediatamente scende la potenza a zero. Ho freato che fanno raffreddare 2 secondi e poi riparte. Il discorso è quello. Come succede anche nel Kimball, nel 680, perché a me mi è successo che stavo parlando da barattino, tutto un tratto, si è scesa la potenza a zero, ha giocato, ma ha bruciato tutto. E invece, fortunatamente l'ho spento, l'ho fatto raffreddare, è partita la ventola e si è ripreso. E se non l'avevi già bruciato il primo 680, e ho avuto, da lì me ne sono accorto. No, ma qua il problema è un'altra cosa, il problema è che io non stavo neanche pompando, era normale, e mi ci sudavano matteci. Ma io ho pompato, hai visto? Noi siamo visti di pompare, già te lo dico neanche tu, mi ero sempre attaccato con lineare, con quell'apparecchio, quindi... posso dire di anni tutti fate a maletta quasi 18, io ero di meno, eravamo 15 e non mi faceva quel difetto, hai capito? Perché non sai che io ho quel lineare piccolino, lo Speedy CTE, quindi di quello non mi puoi dare, hai capito? Capo, ma io stazionario non ne ho, cioè è impossibile che mi sute di aghiccio. Adesso l'attacco, lo provo. Io non c'è paura di stazionare me. Io quel barattino che c'hai tu l'ho provato con il lineare che ho io, il numero 2002. Io riuscivo a pilotare solamente con quello. Con l'altro barattino, lo sai. E quando mi hanno detto c'è, attacca di Rosme tanto mette, voglio sapere quanti batti c'ha. Ho fatto quello che ha fatto, ho messo lo spezzone, mi si è bruciato il lineare, come si chiama, la ricerca d'ingresso mi si è bruciato, non il finale, meno male, solo la ricerca d'ingresso si è bruciata. Quindi a un certo punto sto dicendo, dopo ingresso gli ho dato alla BV 2002, adesso li devo togliere con la licenza d'ingresso e gli viene parte di nuovo qua, perché i finali sono a posto. Ora dov'è? Dimmi tutto, ti ascolto. Ecco, adesso l'ho acceso, no? È l'unico che funziona bene quel baracchino, come se c'è un'amplificazione allucinante. È come Saturn Echo, tale uguale. Cappa, guarda a vedere. Perfetto. Cappa, il segnale è alto, Sei una 30, non so io. Cappa. Sto pompando, L'Audi 5 chiara, non è manco satura, niente. Non è graffiante, né è perfetta. Io ti sento bene. Cappa, adesso devo scaldare un po', ma... La massa di varia. Ora! Ma sai che mi ha detto che arrivo 9.30 anche da Claudio, così? Chissà che marazzurriera! Ora! Avanti! Vabbè Luca, arrugghito sei! Oia! Fatti, c'era! Sto cazzo di gola! Non io la ricetta, beviti due Campari! Non mi piace! Guarda che pure a me non mi piacevano, allora me ne dico pure 5 a bocca! No, non fa a me. Ma mi piace troppo amaro, è un latero. Baga, fammi, sto provando la Marazzurri, no? Che... Ah, si stai matto. Eia, ma se pompa questa cosa? Se non abbiamo, non mi risulta mai della messa. Mi muoio a fondo scala a casa tua, c'è un buon pende. Appena. Ho poi un brutto mucco. Gappa gappa, ah, posso faccio un bagno di passaggio a buonissimo con tutti, no? Che non ce n'è bisogno. Aspetta, sei quella tu. Mi piglio lo sciroppo. Ah, piglia lo sciroppo, va, mi da poi me lo piglio pure io. Sento, Pomponio, ancora vendi, sì. No, sciroppo ho preso, no, ce l'ho qua vicino a tu. Sto a giocare ai bisambini. Mi devo alzare roba per portare a te. Ah, fai fatto bello. Mi sa che abbiamo anche bisogno della ricatea. Ho provato poco fa, da domani mattina adesso, già resiste. Cappa, si biscia un po' Marina. La larga da Marina l'ho portata io, cosa si biscia? No, allora già va bene, va. Ora, la matadini varia. Ho fatto fare un giro grande grande, capito? Cappa, cappa. Adesso passo un altro apparecchio, su tutto in occhio. Fatta scaldare la valvola, boh. Via. Cappa, cappa. Eccomi qua, sono arrivato. Ehi, ehi, ma con pure che fine ha fatto? Boh, dice che stava saldando roba, non lo so. Alcuni dicono che dobbiamo andare. Cappa, cappa. Andiamo, andiamo. Cappa, vai, ci sei, passo da chi c'è Mirko, vedi. Ehi, ma... Boh. Tanto un casino, troppi contatti, viso, un casino, grazie, un casino. Se guarisco magari questa fine settimana, ti fai un salto. Uno di questi giorni ha detto. Fatto un salto, ma poi si cambia con i trucchi perché anche lui è influenzato. Lui non è che bandugino. Chi è ragazzo? Cappa. Lui, non è che cosa, così dice. Però la cosa deve andare anche così, deve uno guarire, l'altro guarire, guariscono tutti. Ma poi io non penso, tutti gli anni uno si piglia di marasorsi. Secondo me è una cosa normale, secondo me stiamo esagerando. Cappa, non penso io, secondo me... Stiamo esagerando davvero, secondo me è una cosa normalissima che succeda così, capito? Cioè, cazzo, ma tutti gli anni ce li abbiamo presi il raffreddore, la febbre, poi non nessuno ha ticcato, da che ne ci dà questa roba, file per farci questo cavolo di tavolo, ma non mi ne ci da mezzo. E finimo nera, basta con queste storie. Bisogna veramente basta, guarda. Cioè, uno si ha pigliato la febbre, si ha pigliato le cose, da chi pirino e con sicura, boh. Finito il discorso. Cosa sono tutti canti che si pagliacciate? Adesso vediamo. Quindi ti di in casa, mamma, che mancanti siamo cosa. Cioè, ma di cosa siamo papidette? Infatti. Nel mondo c'è qualcuno che... Infatti, è quello. Cappa. La gente è troppo credula delle cose. Ma quanti anni siamo così? Tosse, bronchitti, ghicce, ghiddacero. Cioè, non è la prima volta, no? Io, no, veramente, io non ci sto. Cioè, stiamo esagerando, secondo me sono pagliacciati da voi, non lo so. Infatti, adesso sto cavolo di tamponi, quanto ne stanno facendo? Scoperta questa cosa! A bizzeffa ne stanno facendo questi tamponi, stanno spendendo un patrimonio, chissà quanti miliardi ci guadagnano questi tamponi. Allora no. Ma io dico solo una cosa, se uno ha il raffreddore, ha la tosse e cosa, che curino le persone, là che la pigli di cagate. Infatti. Stiamo esagerando, siamo vendi, come si dice, siamo vendi di pagliacci e boh, cioè stanno facendo solo le pagliacciate. a che bagno abbattente e pigliare di naghi insieme? Che non lo so. Gatta, andiamo a finire. Che curino la gente, che forse fanno meglio, me. Le diano le cure adatte per curare il raffreddore, per curare la tosse, per curare tante cose. E forse fanno più bella figura. Funziona di quattrini. Gatta, se ne sono appena un po', vuol dire, fanno interessi da reddito, con una cosa impressionante. E allora, per quello. Cazzo, la mi dai, non dalla noica. Come dai, la mi dai. Se abbiamo avuto la mi dai di tutti i dinacchi, ci sono la prende. Cazzo, la mi sta da puzzo. Ah, no. Ti ha bruciato, so chi si. Macchini. Lo so, aspetta un attimo, adesso vengo subito. Cazzo, vai.